Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato e benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Ne abbiamo già parlato settimana scorsa e quella ancora prima e sporadicamente in tutte quelle precedenti. Però anche questa settimana dedichiamo uno spazio alla Brexit, principalmente perché c'è tantissima incertezza su come il voto del referendum che ha sancito appunto la exit della Great Britain dall'Unione Europea sarà poi implementato. Sappiamo che comunque si dovranno aspettare le elezioni del nuovo capo del Partito Conservatore dopo l'estate, ma comunque il processo potrebbe durare 2 anni. E allora tanto vale esercitarsi ancora sul perché di questo voto. Vi segnalo un articolo di David Randall, che è stato per tantissimi anni caporedattore dell'Observer, che è l'edizione domenicale del Guardian, e che ha una rubrica fissa su internet nazionale, ma anche su alcuni quotidiani e periodici britannici e proprio a internazionale. Tra l'altro il festival dell'ultimo weekend di settembre di internazionale è imminente e lui ci sarà, appunto lì insegna dei workshop sul giornalismo. Vi leggo solo la prima parte, ma è molto divertente e arguto, come quasi sempre i ragionamenti di David Randall, qualsiasi argomento egli tocchi. Se volete provare a capire perché il Regno Unito ha deciso di lasciare l'Unione Europea, non sarebbe una cattiva idea partire dal periodo in cui, circa 8500 anni fa, i ghiacci polari si sciolsero, il livello degli oceani salì e la bassa striscia di terra che collegava l'Inghilterra al continente sparì sotto il mare. Così cominciò il rapporto a debita distanza tra i britannici e l'Europa e l'evoluzione della mentalità scettica, a volte ostile, che lo accompagna. Se le si guarda dal punto di vista storico, quindi, le anomale relazioni dell'isola con il continente non sono tanto il risultato del referendum della settimana scorsa, quanto di 44 anni di appartenenza poco convinta all'Europa unita. E poi naturalmente tocca anche moltissimi altri temi. Per lasciare un attimo la Brexit e cambiare argomento, vi segnalo un articolo apparso sulla Frankfurt Allgemeine Zeitung, il quotidiano tedesco, che ci riguarda, ma che riguarda un po' anche l'incerta situazione politica in molti paesi europei. Non c'è solo l'Italia, sappiamo che c'è la Spagna, che ha votato il 26 giugno ma ancora una volta non si riesce a formare in tempi brevi un governo, e poi c'è l'Austria, dove le elezioni presidenziali sono state dichiarate non nulle ma comunque da rifare per alcune irregolarità. E quindi, parlando appunto di questa instabilità politica e del caos che regna in alcuni paesi, la FAZ si concentra sull'Italia, anche se poi cita anche gli altri esempi, e in particolare sul governo e sulle sue attuali difficoltà, specie dopo le ultime elezioni amministrative che tutti hanno, benché il premier nonché segretario del principale partito italiano, il PD, parliamo di Matteo Renzi naturalmente, ha smentito che fossero un test per il governo. In realtà di fatto poi sono passate per essere questo, e quindi l'indebolimento del governo. E allora la Frankfurt Allgemeine Zeitung traccia un quadro preoccupato della situazione politica in Italia, e l'articolo che si intitola Renzi o il caos, in questo articolo Tobias Spiller, che è il corrispondente dall'Italia della FAZ, descrive questo delicato passaggio referendario di ottobre, e inserendolo però in un clima politico che rischia di infuocarsi se la situazione delle banche dovesse aggravarsi. E abbiamo visto che nella settimana che si è chiusa, la settimana borsistica si è chiusa già da ieri, ma insomma questa settimana è stata una settimana durissima per le banche, non solo per le banche italiane. A proposito di periodi difficili, la Süddeutsche Zeitung invece affronta il problema, lo scandalo Volkswagen. Ricorderete quando la Volkswagen è stata accusata di aver taroccato i dati sulle centraline che misurano le emissioni, quello che viene chiamato il Dieselgate, ha già annunciato tutti i risarcimenti per i clienti americani, mentre ai clienti europei questi risarcimenti potrebbero non spettare. In ogni caso, secondo il CEO della Volkswagen, Herbert Diess, ci vorranno più o meno 2 generazioni di veicoli, cioè circa 14 anni, considerando quanto è lunga e dispendiosa in termini di tempo e non solo la pipeline delle macchine, quindi circa 14 anni per ricostruire anche credibilità per la Volkswagen. Molto interessante un articolo che ho trovato su Le Monde, perché secondo Le Monde la Francia andrebbe verso l'abrogazione di una circolare che risale al 2013, che sanziona fortemente con maxi multe e in alcuni casi persino il carcere i ginecologi che aiutano i pazienti che vogliono sottoporsi alla fecondazione assistita all'estero. Quindi vedete che questo è un tema molto controverso in Italia, ma non solo. L'annuncio del ministro della famiglia Laurence Rossignol è arrivato dopo l'impegno preso dal presidente Hollande con le associazioni LGBT, che naturalmente spesso, esattamente come avviene in Italia, sono a volte anche coppie di eterosessuali, però soprattutto coppie appunto di omosessuali che vanno all'estero dove sono lecite alcune pratiche come il cosiddetto la maternità surrogata, cioè il cosiddetto utero in affitto. Questa circolare che appunto a breve potrebbe essere abrogata, pensate, prevedeva multe di 75.000 euro o carcere fino a 5 anni. Le associazioni appunto LGBT, tra cui anche SS Omofobi, si battono da 3 anni, da quando questa circolare è stata introdotta, per cambiare le cose. Forse adesso ci sono riusciti. A proposito di Brexit, che comunque trovo sia interessante anche vedere le modalità del referendum, visto che anche noi stiamo per votare un referendum su una questione molto importante, la Costituzione, la nostra Costituzione, e sento dire sempre più spesso che forse sono questioni queste su cui non dovrebbero essere chiamati a pronunciarsi i cittadini, e soprattutto se così è, dovrebbe esserci veramente quanta più informazione possibile per evitare, come pare sia successo nel Regno Unito, che molti abbiano votato, sempre con un'espressione un po' abusata, di pancia e non di testa. Allora Robert Harris sul Times scrive: uniti nel caos, affidare a un referendum la scelta su un tema così complesso come la permanenza, il remain o il leave nell'Unione Europea è stato un errore. A pagare saranno tutti i cittadini. Scrive Robert Harris: se il Regno Unito vuole conservare l'integrità del sistema rappresentativo, dovrà andare a elezioni anticipate, forse già in autunno, anche loro. Il conservatore Boris Johnson, che presumibilmente diventerà primo ministro, ma questo poi abbiamo visto che forse non è così sicuro, perché Boris Johnson è uno dei tanti politici, insieme al leader del Labour Corbyn, che hanno accusato il colpo della Brexit, e quindi si è un po' chiamato fuori per ora, ma Boris Johnson è anche talmente imprevedibile che forse potrebbe ritornare in campo. Quindi Boris Johnson dovrà presentarsi agli elettori chiedendo un mandato per l'uscita dall'Unione, perché, come dicevamo, il verdetto del referendum è chiarissimo, molto meno chiaro come uscire dall'Unione Europea, perché lo ricordiamo appunto, in 44 anni, ma in tutti gli anni di esistenza dell'Unione Europea non si è mai presentato il caso di un paese che volesse uscire. Sempre sulla necessità di voltare pagina, quante volte l'abbiamo sentito dire che questo voto, se qualcosa di buono può uscire dal referendum del 23 giugno sulla Brexit, è che l'Europa si dia una scossa e cambi tutte quelle cose che l'hanno resa così impopolare. E anche Nathalie Nouguier-Red, nella sua rubrica per Internazionale, avalla questa tesi e scrive: ricostruire l'Unione dalle fondamenta. Il divorzio dalla Gran Bretagna sarà caotico e faticoso, sottrarrà energie ad altre sfide come la lotta alla disoccupazione, la gestione dei flussi migratori e il caos geopolitico ai confini dell'Europa. Un commento anche sulle elezioni in Spagna, che ci sono state il 26 giugno, anche lì erano elezioni anticipate perché non si era riusciti a formare un governo dopo le precedenti elezioni politiche. L'opinione di Pedro Quartango su El Mundo è che il voto, che comunque ha premiato il partito di centrodestra un po' a sorpresa di Mariano Rajoy e non ha fatto fare quel salto di non di qualità ma di quantità, potremmo dire, a Podemos, che è un movimento che molti spesso affiancano al nostro Movimento 5 Stelle. Ecco, quel voto è stato anche il frutto del peso della paura. Il titolo addirittura inizia con quattro parole in inglese che sono "In fear we trust", crediamo nella paura. In quei giorni, naturalmente, come purtroppo poi è successo anche dopo, si susseguivano le notizie di attentati in tutto il mondo, ma anche in un mondo molto vicino come può essere la Turchia, e allora forse gli spagnoli hanno anche votato in modo che si potesse poi, quindi facendo un voto abbastanza tradizionalista e, come dicevo, inaspettato per un partito che già ha molta esperienza di governo e non per uno che non ne ha come Podemos. Ma vedremo, perché un governo in Spagna di fatto ancora non c'è. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.